Eccomi, buongiorno, buongiorno, ormai è un po' buonasera, bentrovati e bentrovate alla Fuga del Gatto, come quasi ogni domenica, cioè di base dovrebbe esserlo, ma poi ogni tanto zompiamo, ma oggi ci siamo, domenica 24 febbraio, ovviamente del 2019, e sempre in solitaria la mia compara è ancora assente, ma per poco, non preoccupatevi troppo, a breve tornerà a deliziare le vostre wombat orecchie con la sua vocina e non mi lascerà più da sola, ma siccome ancora una domenica ce l'ho in solitaria per poter dare fondo alla mia musica, così, la mia musica, come lo sapete ormai, barocca e antica, anche se devo dire che non me ne sono approfittata troppo, non si può dire, non mi si può rinfacciare niente, perché insomma domenica scorsa abbiamo parlato di Arvo Part, quindi insomma direi che barocco mica tanto. Ecco, oggi invece me ne riapprofitto, ci ritorno sopra e andiamo nel pieno del barocco inoltrato, direi, perché indaghiamo un pochino la figura e il personaggio di Giovan Battista Draghi, detto Pergolesi. Pergolesi, che abbiamo già ascoltato La Fuga del Gatto con il suo meraviglioso Stabat Mater qualche puntata fa, ma quindi insomma non mi ripeterò, non vi farò riascoltare lo Stabat Mater, anche se l'ascolterei per ore perché è bellissimo, e insomma se per caso vi siete persi quella puntata vi invito a riascoltarvela approfittando del nostro sito wombat.noblogs.org, dove trovate tutte le puntate della Fuga del Gatto in podcast, ma non solo quelle, ovviamente anche tutte le altre puntate di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat, potete quindi comodamente riascoltarvele. Ecco, insomma, se no, poi ci sono anche gli altri canali, quelli normali e più usuali. Ma no, insomma, il nostro è usuale ormai, spero. Ma insomma, ci sono anche quegli altri brutti, più così, che vi danno la musica. E insomma, li potete trovare tranquillamente, la Stabat Mater di Pergolesi, e andarvelo a riascoltare. Ve lo consiglio, ma non ve lo ripropongo oggi, perché oggi dobbiamo invece ascoltare altri tre brani molto belli. Ugualmente direi, anche se probabilmente lo Stabat Mater è un po' il capolavoro di Pergolesi, almeno secondo me, ma insomma ci aspetta della musica comunque bellissima. Giovanni Battista Draghi, detto Pergolesi, dicevamo, non ci perdiamo troppo in chiacchiere. Nato a Jesi nel 1710 morto a soli 26 anni nel 1736 a Pozzuoli. Un compositore, organista e violinista, il suo repertorio in realtà, vedremo, non è vastissimo, purtroppo, anche perché purtroppo morì molto giovane, come abbiamo appena detto, ma insomma più che altro compose opere e musica sacra. Ovviamente dicevamo la vita fu brevissima, diciamo si parla di 5-6 anni di intensa attività compositiva, e meno male che fu intensa, perché insomma purtroppo fu breve. E la sua fama fu quindi, anche per ovvie ragioni, insomma limitata, insomma in 5-6 anni, purtroppo soprattutto nel Settecento, insomma non è che proprio si poteva fare grosse cose, ma nonostante ciò è arrivato fino a noi e come. La sua fama fu limitata, dicevamo, in particolare geograficamente a Napoli e a Roma, e non ebbe il tempo di spaziare molto di più, anche se poi lo vedremo con dei picchi di fortuna che arrivano fino a Bach, insomma. Però Napoli in quel momento, e ovviamente anche Roma, ma Roma è un po' più ovvio, ma Napoli era un po' il centro del mondo della musica in quel momento, quindi ecco, sebbene la sua fama era limitata a pochi anni e in pochi luoghi geografici, probabilmente erano quelli giusti in quel momento. Dicevamo, in realtà il nome di Pergolesi era Draghi, o anche detto Drago, ma siccome nacque a Jesi, Ora lo vedremo, insomma, ebbe la genesi del suo nome, o che meglio il suo soprannome, Pergolesi, derivò proprio dalla sua nascita geografica, dal luogo in cui era nato. Nacque a Jesi, dicevamo, in provincia d'Ancona, nel 1710, terzogenito di Francesco Andrea e Anna Vittoria Giorgi. Il nonno, Cruciano Draghi si chiamava, era un calzolaio, quindi insomma non proprio ricchissimo, come dire, anche se evidentemente non se la passava neanche malissimo. E, a sua volta, figlio del maestro Francesco di Pergola. Cruciano, il nonno di Pergolesi, nel 1663 sposa a Jesi una donna del luogo e quindi lì diventarono famosi come i Pergolesi. In realtà il fratello e la sorella maggiori del compositore erano stati iscritti, però ovviamente nel registro dei battesimi con il nome di Draghi, tutti lo riconobbero come Pergolesi. Pare che fosse un paese in quella provincia, Pergolese mi sembra si chiamasse, sì, per cui insomma derivava direttamente da lì. Fra l'altro, nei documenti invece del conservatorio dove studiò Giovanni Battista Pergolesi, venne inserito sotto il nome di Jesi, cioè proprio così, no? Cioè, quello lì. È così, con neanche una sottile vena di razzismo e strafalcioneria. E lui in realtà si era a sua volta proprio indicato come Pergolesi, ma non c'era versi. Allora, Pergolesi, abbiamo detto, è morto molto giovane e comunque ha avuto una vita, insomma, non proprio fortunatissima fin dall'inizio, perché perse i genitori molto presto e anche due fratelli, fra l'altro, quindi due fratelli e una sorella. Quindi, insomma, una vita contornata dalla sfiga, non proprio felicissima fin dall'inizio. Nonostante ciò, Pergolesi, e questo non era proprio scontato e, insomma, da sottovalutare, riuscì a studiare in particolare organo e violino. E maturò un notevole talento, come vedremo, insomma. A 15 anni fu scoperto un po' da questo mecenate, il marchese Carlo Maria Pianetti, che lo introdusse, riuscì a farlo ammettere nel Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo a Napoli, che appunto, ripetiamolo, ma insomma in quel momento era un po' il fulcro del mondo. In questa maniera Pergolesi riuscì a studiare composizione e in qualche modo si addestrò, come dire, con i maggiori compositori e musicisti dell'epoca a Napoli. Insomma, dicevamo, sì, Napoli nella prima metà del Settecento era, dal punto di vista musicale, sicuramente una delle città più importanti e vivaci. C'era Alessandro Scarlatti, l'autore tra sì, Nicola Porpora, insomma, ce n'erano un bel po', Leonardo Leo si era formato una sorta di stile napoletano nelle corti che poi, insomma, da Napoli riuscì a emergere un po' nelle corti di tutta Europa. E insomma, in quel periodo si faceva un gran parlare di questo stile. Poi vedremo uno stile che si contrapponeva un po' a uno stile invece che veniva detto, veniva almeno pensato come uno stile un po' più formale, rigido, che era quello invece francese, delle corti francese. Pergolesi, proprio perché era un musicista di grande valore, di grande talento, riuscì in qualche modo a studiare e a continuare a studiare, nonostante poi non avesse molti mezzi economici a sua disposizione. Siccome con i concerti che teneva proprio al conservatorio, prima come ragazzo del coro, poi come violinista, fondamentalmente emergeva, riusciva molto bene, i concerti erano molto apprezzati, in questa maniera si pagava in qualche maniera la propria permanenza e la propria retta del Conservatorio di Napoli. Nel 1731 si diploma e come saggio finale compone un dramma sacro, Li prodigi della Divina Grazia nella conversione e morte di San Guglielmo Duca d'Aquitania, penso uno dei titoli più lunghi della storia. aveva già composto altri titoli già ancora prima di laurearsi, quindi già prima dei 21 anni, e riuscì, grazie insomma, un po' alla piccola fama che era riuscita a farsi in quegli anni, subito una commessa, riuscì subito ad ottenere una commessa per la composizione di un'opera presso il San Bartolomeo, che era allora uno dei maggiori teatri napoletani, e scrisse la Sallustia. La Sallustia era un'opera che prevedeva nel suo organico il castrato, che vi ricorderete, insomma, andavano per la maggiore, era di gran moda in quel momento. C'era questo castrato, Niccolò Grimaldi, molto, molto famoso all'epoca, che però morì prima della messa in scena, e quindi ovviamente ci furono grossi problemi subito. Sarà detto d'altra parte che poraccio Pergolesi è un po' di sfighe le ha viste, e d'altronde la stessa opera, insomma, era un'opera un po' ingessata e non riscosse molto, molto successo, non solo per la mancanza della star, diciamo, di questo castrato di Grimaldi, ma anche perché era un'opera che, proprio per il volere di Grimaldi stesso, era stata molto ligia alla tradizione e alla moda di quel momento, molto ingessata, molto rigida, e al pubblico non piacque molto. Però in ogni caso, insomma, non piacque molto, ma neanche fu proprio un flop, e fu in ogni caso assunto subito dopo da uno che divenne poi uno dei suoi protettori, il principe di Stigliano Ferdinando Colonna, che gli diede l'incarico di maestro di cappella, che, come sappiamo, era un incarico molto importante e, insomma, molto ambito un po' ovunque in tutta Europa. A quel punto continuò Pergolesi a comporre, compose per lo più opere, e però arriviamo a un fatto drammatico. Sempre a Napoli, alla fine del 1732, ci furono dei maremoti molto, molto gravi, molto pesanti, che devastarono Napoli e ovviamente portarono alla sospensione del carnevale, che era il periodo, era quello. Sia per il 1732 che per il 1733, e sospesero anche la stagione dei teatri. Insomma, era il momento giusto in cui si poteva riscuotere qualcosa, e purtroppo, a causa di questo momento terribile che la città stava attraversando, i teatri la programmazione fu sospesa, e quindi chiaramente, insomma, ci fu un momento in cui non si poteva andare in scena, ma questo, paradossalmente, fu anche un motivo di fortuna, in qualche modo, per Pergolesi, perché gli fu commissionata la messa in re maggiore a 10 voci e 2 cori, proprio in ossequio a questo lutto, cioè, diciamo, proprio per omaggiare in qualche maniera e piangere i morti di questi terribili maremoti. Andiamo avanti nel tempo. Ci furono ancora altre composizioni, e siamo sempre intorno al 1733. Finalmente, Pergolesi riesce a mettere in scena un nuovo lavoro teatrale. In occasione del compleanno dell'imperatrice Elisabetta Cristina, di nome impronunciabile, Brunswick-Wolfenbüttel, chissà, Wolfenbüttel, insomma, questa opera era Il Prigionier Superbo, dramma per musica in 3 atti, che poi fu, insomma, un libretto derivato da una collaborazione con vari librettisti, ecco. Ma onestamente si dice che la messa in scena non fu proprio meravigliosa. La compagnia a cui era stata affidata questa messa in scena non era proprio ottima, ma riscosse un grandissimo successo. Ci furono moltissime repliche, furono prolungate addirittura, e insomma inizia la fama e il successo per Pergolesi. Ma attenzione, e qui inizia la stranezza. la fama e il successo di questa opera non era tanto derivato dall'opera in sé, quanto da una piccola composizione che veniva invece eseguita durante gli intervalli. Era uso nel Settecento, in quell'epoca, fare questa cosa. Anche durante gli intervalli non ci si annoiava, diciamo, perché si veniva intrattenuti con altre composizioni che nulla c'entravano con l'opera originale. Era una sorta di intermezzo, di intervallo proprio, sempre ovviamente composti da pergolesi. Avevano un carattere allegro, scanzonato, un po' malizioso, che metteva in scena questi personaggi un po' caricaturali, cosa che piaceva moltissimo nel Settecento, in realtà un po' in tutta Europa, ma a Napoli in particolare. E questo fu in qualche modo un piccolo evolversi e un piccolo passaggio in avanti dal linguaggio musicale barocco precedente verso poi quello che fu lo stile poi dopo dell'operetta e dell'opera teatrale, l'opera teatrale dopo dell'Ottocento, e fine Settecento e inizio Ottocento, e via e via. C'aveva questa musica che piacque così tanto ai suoi contemporanei, era in qualche modo apparentemente spontanea, fresca, che doveva riflettere la società napoletana con uno stile popolare, allegro. C'erano motivi spagnoli, non a caso, insomma, scene comiche, ma c'era anche del pathos, anche se sempre un po' così messo in secondo piano. E questi intermezzi, insomma, fecero un grande scalpore e provocarono, perché appunto questo intermezzo qua in particolare, ma poi vedremo, ce ne furono altri in altre opere, ma insomma in particolare questo intermezzo scatenò a Parigi un grande scandalo, in qualche maniera una grande disputa chiamata la querelle des Buffons, dove praticamente c'erano due contendenti. Erano da una parte i sostenitori dell'opera tradizionale francese, come abbiamo un po' detto all'inizio della trasmissione, lo stile di Lully e Rameau per capirsi, e sostenitori invece di questa che chiamavano opera buffa, per l'appunto, italiana, napoletana nel particolare. I sostenitori di questo nuovo stile erano gli enciclopedisti, tra loro c'erano Jean-Jacques Rousseau. Insomma, questa disputa divise le due parti, e poi portò chiaramente a un mutare dei costumi e del gusto culturale dell'epoca verso, appunto, abbiamo detto, lo portò ad approdare poi ad altri lidi. In realtà questa disputa, e gli enciclopedisti stessi operarono una riduzione abbastanza netta e abbastanza svilente del lavoro di Pergolesi. Non è che proprio probabilmente lo avessero capito in pieno, probabilmente l'avevano anche molto sottovalutato e ne avevano fatto un po' un vessillo per quello che erano le loro istanze, le loro ovviamente motivazioni di rinnovamento e insomma per la loro critica alla cultura imperante. Dopodiché Pergolesi ne fece un po' le spese, perché la sua opera fu abbastanza ridotta ai minimi termini. Ho citato prima Rousseau, ma anche D'Alembert, Diderot, tutti questi enciclopedisti che conosciamo benissimo, insomma, si pronunciarono a favore di questo stile, in particolare dello stile fresco cosiddetto di Pergolesi, e in particolare quello che esaltavano erano queste cosiddette caratteristiche di spontaneità, di chiarezza, di naturalezza, cosa che loro insomma spingevano moltissimo, questa presunta naturalezza che poi insomma si potrebbe aprire un mondo indagando quanto questa cosiddetta naturalezza poi abbia fatto danni, perché chiaramente andava a sostituire un dogma con un altro dogma e con un qualcosa che insomma con questa supposta naturalezza e divinità della natura, insomma, poi di fatto inquadravano la vita delle persone, la cultura in degli schemi rigidi tanto quanto quelli che criticavano. Ma qui si aprirebbe un mondo. In ogni caso, il povero Pergolesi un po' appunto cioè, fu messo in mezzo. Addirittura parlava di Pergolesi in questi termini: Pergolesi nacque e la verità fu rivelata. Insomma, era poverino, era stato proprio messo in mezzo e non è che ne fosse, secondo me, poi molto felice. Perché tutto ciò forzò molto il significato della sua arte, la costrinse anche in certi limiti. E vabbè, e quindi è andata un po' così. E forse è anche stato per quello che poi vedremo la sua opera poi, cioè alla sua opera fu sottratta un po', anche furono sottratti gli elementi forse un po' più interessanti, fu sottovalutato. E poi di fatto quindi fu dimenticato quando poi la moda del momento cambiò, passò e si doveva andare avanti. E poi lo vedremo, proprio grazie a questa riduzione che ne venne fatta, si fece una sorta di icona ridotta con solo alcuni pezzettini che erano stati capiti anche male. E fu imitatissimo, fu stravolto e insomma lo vedremo, purtroppo ebbe un po' varie sfighe. Allora, tornando un po' alla sua vita, dopo il successo dell'anno precedente, che dicevamo, insomma, nel 1734, Pergolesi mette in scena una di quelle che è probabilmente la sua opera, insomma, una delle opere principali, più conosciute, almeno adesso, ovvero l'Adriano in Siria. Un dramma in musica chiamato così, in tre atti, il libretto era di Metastasio, che gli era stata commissionata per le celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta Farnese. Venne allestita al Teatro San Bartolomeo, che dicevamo, e a quest'opera venne abbinato un altro intermezzo di quelli che dicevamo prima, molto celebre anche questo, Livetta e Tracollo. Anche questo poi di fatto fu destinato a superare per fama l'opera invece in cui era inserito. Ci ascoltiamo un primo brano tratto proprio dall'Adriano in Siria, è un'aria di circa 14 minuti, lieto così talvolta viene chiamata. E la versione che ci ascoltiamo è cantata da Simone Kermes, soprano, e quindi poi ci ritroviamo tra circa 14 minuti e continuiamo nel racconto di Gian Battista Pergolesi. Thank you. Thank you. Pergolesi, quindi dicevamo Radio Wombat. Ovviamente, se per caso vi siete addormentati o addormentate e non sapete dove siete, ma come fate voi ad addormentarvi con questa musica? Non vi capisco. Radio Wombat e La Fuga del Gatto, in particolare il ripiglino della domenica pomeriggio con un po' di musica classica. Vi ricordo i nostri social Wombat e i contatti per ascoltarci, il sito ve l'ho già ricordato, inizio trasmissione, wombat.noblogs.org, e la nostra casella di posta, postawombat@insiberia.net, ma anche e soprattutto le nostre frequenze in onde mediocri, 1359 AM o MW, come preferite, se avete la radio in inglese, insomma, con le scrittine in inglese, magari la trovate così, non sapete che corrisponde alla M, è esattamente così. Bene, vi ho detto tutto e ora possiamo proseguire nella scaletta. Sempre Pergolesi, dicevamo, intanto, insomma, mentre dicevamo che c'era queste dispute un po' sulla pelle di Pergolesi, il 23 febbraio il nostro, come dire, era stato nominato maestro di cappella. Questo avevamo già un po' detto, sostituto dalla fedelissima città di Napoli. Posizione di prestigio, questa, come abbiamo un po' anche detto, che insomma, in qualche maniera, essendo un sostituto, gli consentiva di almeno provare ad aspirare alla successione per poi essere titolare vero e proprio. Allora, in quest'anno cosa successe? Succede che fu riproposta la ripresa, si dice, dell'opera Lo frate innamorato, che non abbiamo citato, ma insomma era una delle prime opere che non ebbe un gran successo, o meglio, ebbe abbastanza successo, ma questa ripresa che avvenne invece in seguito lo superò assolutamente il successo dell'allestimento iniziale, e tant'è che divenne un po' l'attrazione principale del carnevale napoletano. Vi ricordo che il carnevale, insomma, nel Settecento, ovviamente non solo a Napoli, pensate anche a Venezia e ai maggiori centri culturali italiani del tempo, insomma, era un po' fondamentale, era un qualcosa che si aspettava da tutto l'anno, ecco. E, insomma, quindi l'attrazione principale del carnevale napoletano divenne proprio questa opera di Pergolesi, e da lì in poi, insomma, si aprirono un po' le porte del successo, della fama per il nostro Pergolesi, e che riuscì in qualche modo a superare i confini di Napoli e arrivare oltre. Ma nel frattempo Pergolesi non stava benissimo, abbiamo detto che tutta la sua famiglia fondamentalmente morì, se non quasi tutta, cioè se non tutta quasi, e anche lui non stava proprio benissimo, fin dalla nascita in realtà pare fosse piuttosto malato, ed era in particolare affetto da tubercolosi, che ebbe un lento e inesorabile percorso che insomma dilaniò il fisico di Pergolesi, proprio in quei momenti che insomma era l'apice forse anche un po' del successo di Pergolesi, in realtà era proprio in quel momento che il suo corpo iniziava a cedere inesorabilmente. Tant'è che da Napoli, dove era, si ritirò a Pozzuoli, dove si diceva ci fosse un clima più salubre e c'era oltretutto un'assistenza locale medica nel convento dei Cappuccini dove alloggiava. Insomma, di fatto continuò a comporre, ma in condizioni fisiche sempre più precarie. Abbiamo detto all'inizio che fu Pergolesi un compositore di musica più che altro per opere, ma fu anche un importante compositore e autore di musica sacra, e uno dei suoi lasciti, forse e probabilmente il lascito più importante, fu Beh, no, insieme allo Stabat Mater, ovviamente, che probabilmente forse è davvero il suo lascito più importante, ma insieme c'è anche il Salve Regina, un brano del 1700, composto probabilmente intorno perlomeno al 1736, e, per orchestra d'archi, soprano e contralto, o meglio, ce ne sono due versioni, ora lo vedremo, una per soprano e una per contralto. E mentre invece lo Stabat Mater vedeva questi due ruoli insieme, dialogare insieme. E lo Stabat Mater, almeno così vuole la tradizione, così dice la leggenda, fu completato proprio lo stesso giorno della morte. Invece lo Salve Regina perlomeno riuscì a essere un po', insomma, a finirlo con calma. E insomma, però, queste furono un po' le sue due opere sacre, perlomeno più conosciute, almeno adesso, ma sicuramente anche al tempo. Ma già verso la metà del Settecento, quindi una volta che Pergolesi era già morto, in realtà lo vedremo poi meglio dopo, però Pergolesi era già molto più famoso di quanto non fu quando era in vita. Proprio lo Stabat Mater fu un po' al centro di questa sua fama, perché venne stampato molto e queste stampe iniziarono a diffondersi un po' tutta Europa e arrivarono a Bach, per esempio, che se lo ritrovò, lo ascoltò con rapito in qualche maniera e ne riscrisse una sua versione, dove fondamentalmente quello che cambia sono dei dettagli e poi abbastanza importanti, ma insomma dei dettagli, ma l'ossatura e gran parte della melodia rimane, del ritmo rimane identica. Cambia la musica, cambiano certe cose, ma insomma Bach lo fa suo questo Stabat Mater e ne fa il Salmo 51, il BWV 1083, famosissimo Stabat Mater di Bach, che deriva appunto proprio da questo di Pergolesi. Ma non solo, ci fu un numero incredibile di autori minori e fra l'altro generalmente anche abbastanza mediocri che presero proprio a mani basse dall'opera di Pergolesi e insomma, poi lo vedremo verso la fine della trasmissione, tra poco, un po' devastarono anche la sua opera. Tutta questa fama, soprattutto dopo, diciamo, che Pergolesi fu morto, era morto e quindi non poteva neanche dire niente, ribattere in nessuna maniera, tutta questa fama causarono, come è abbastanza ovvio, una serie di leggende sulla figura di Pergolesi, vari aneddoti, varie fantasie. Ad esempio, la morte di Pergolesi, che fu per tubercolosi, per malattia in maniera abbastanza ovvia, invece si iniziò a insinuare il dubbio che la sua morte in realtà fosse dovuta non a cause naturali, ma a un avvelenamento da parte di musicisti invidiosi del suo talento. Decisero che era di una bellezza folgorante, che aveva avuto mille avventure, mille amori, ovviamente tragici, incredibili, ma insomma, tutto questo fa parte della costruzione in qualche modo di un mito, di un personaggio. Peccato che invece povero Giovanni Battista Pergolesi in vita sua probabilmente ebbe una vita, oltre a brevissima, anche molto infelice, insomma, sicuramente non era al centro di tutta questa fama che invece poi ebbe dopo, purtroppo, da morto. Ci ascoltiamo, abbiamo detto prima, appunto, due dei più famosi brani di musica sacra composta da Pergolesi, uno lo Stabat Mater, che però ne abbiamo parlato, ma l'abbiamo anche ascoltata, come vi dicevo, in un'altra puntata della Fuga del Gatto, e quindi ci rimane l'altra opera, che è il Salve Regina. Ora, sul Salve Regina in realtà ci sono due versioni, Una è in do minore per soprano e questa è con penso certezza insomma attribuita a Pergolesi, l'altra è in fa minore e su questa seppure sia una versione famosissima e anche molto eseguita, in realtà ci sono dei dubbi sulla sua autenticità perché come vedremo insomma purtroppo la sua opera fu depredata non poco e, però io vi faccio ascoltare esattamente questa, ovvero la versione in fa minore per contralto, nella versione dell'Accademia degli Artusi, in particolare l'interprete del contralto è Sara Mingardo. Io ve la farei ascoltare lo stesso. Cosa ho detto? Ho detto Artusi come il cuoco? No, no, Astrusi. In realtà è l'Accademia e il direttore è Federico Ferri. E anche questo brano, la durata circa di un quarto d'ora, tutti e tre, ve lo devo già anticipare, hanno questa breve durata e poi ci ritroviamo subito sempre qua. Thank you. Ecco qua, questo era quindi il Salve Regina di Pergolesi. Se avete presente lo Stabat Mater, in effetti lo ricorda molto, ci sono molti echi anche in questa composizione, ma è bellissimo lo stesso, insomma, e forse a maggior ragione. Allora, dicevamo quindi post mortem, ovvero il povero Giovanni Battista Pergolesi muore a 26 anni di tubercolosi, malato sul letto di morte, pare componga la sua ultima meravigliosa opera, ovvero lo Stabat Mater, ma dopo è dopo in realtà che esplode il suo successo. Proprio per questo successo succede un po' una cosa strana. Il catalogo delle opere di Pergolesi ha un exploit, cioè da poche opere che in realtà Pergolesi aveva composto nell'arco di questi 5-6 anni, le opere sue a nome di Pergolesi diventano, si moltiplicano, un miracolo. Perché questo? Perché nel corso dell'Ottocento e del Novecento, ma forse anche prima in realtà, si diffuse questa prassi in qualche modo di pubblicare a suo nome qualsiasi spartito che avesse un po' lo stile musicale della scuola napoletana. Quindi questo infiorire, chiaramente non a caso, cioè questo successe perché ci si voleva fare i soldi, perché ritrovare uno spartito sepolto chissà dove del celebre e sfortunato giovane Giovanni Battista Pergolesi era chiaramente una fonte di ricavo notevole. Quindi a un certo punto, alla fine del XIX secolo, si contano oltre 500 composizioni nel catalogo informale delle opere di Pergolesi. In realtà, adesso si sono fatti nuovi studi, per fortuna, che hanno ridotto a meno di 50 le composizioni di Pergolesi, quelle effettivamente composte da Pergolesi. Tra queste, solo 28 sono i lavori di cui siamo assolutamente certi. Sulle altre c'è un po', insomma, sull'altra metà più o meno c'è un po' di dubbi, ma sicuramente, insomma, tutta la stragrande maggior parte invece non c'entrava niente. A tutt'oggi ci sono molti dubbi sull'attribuzione, appunto, di diversi lavori che nonostante ciò sono in realtà famosissimi. Vi ho citato prima il Salve Regina in fa minore, che ci siamo appena finiti di ascoltare, ma anche l'oratorio La Fenice sul Rogo, che sembrava uno dei suoi primi lavori. Ci sono diverse edizioni musicali e discografiche che continuano a comunque rilanciare, diciamo, questa. Ah, ho avuto un problema al microfono, ma ora è tornato. Insomma, diverse edizioni musicali e discografiche continuano tranquillamente a attribuire in maniera molto così leggera la paternità di Pergolesi a molte opere di cui in realtà non solo non si hanno, insomma, si nutrono forti dubbi, ma su alcune c'è abbastanza la certezza che non siano sue. Questo non deve stupire, perché purtroppo è il triste destino di molte opere barocche, devastate poi per soldi fondamentalmente e stupidità dai posteri. Ad esempio, ci sono arie come Se tu m'ami, che in realtà viene pubblicata a tutt'oggi a nome di Pergolesi, ma che in realtà è sicuramente stata composta da Parisotti. Parisotti, un personaggio ben noto purtroppo della musica classica, che ebbe questa fantastica trovata di riscrivere intere partiture a suo gusto e firmarle come se fossero invece degli autori. Insomma, lui sicuramente compose questa Se tu m'ami, che a tutt'oggi invece viene attribuita da molti a Parisotti, ma così a caso. Parisotti era metà dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, insomma, quindi un bel po' dopo, e si sente poi in realtà molto spesso nelle sue opere. Oppure altre, Tre giorni son Chennina, che in realtà è probabilmente di Vincenzo Legrenzio Ciampi, oppure il Magnificat in Re. Che invece di essere stato composto a Pergolesi, fu composto dal maestro di Pergolesi, Francesco Durante. Questi sono magari errori un po' più perdonabili, come dire, ma insomma, ce n'è di più grossolani, come abbiamo visto, e tantissimi. E quindi il catalogo di Pergolesi purtroppo è un gran buglione, insomma. Per esempio, c'è un esempio molto emblematico, che è il caso del Pulcinella di Stravinsky, di Igor Fedorovich Stravinsky, che fu composto ben nel 1920 in omaggio a Pergolesi, in realtà. E però una recente critica musicale ha, con una certa dose di certezza, stabilito che dei 21 pezzi utilizzati per questa composizione, 11 in realtà sono da attribuirsi ad altri autori, sempre della scuola napoletana, Domenico Gallo e di nuovo il Parisotti. Due invece sono di dubbia attribuzione, e soltanto 8, che fondamentalmente erano tratti dalle opere liriche, sono invece da attribuirsi proprio a Pergolesi. Insomma, un gran casino, ed è abbastanza interessante notare come nella musica classica in realtà c'è un estremo rigore, o almeno ci dovrebbe essere, si pensa che dovrebbe esserci, e invece poi il sano, insano commercio fa fare questo ed altro. E anche lo sprezzo, insomma, della cultura e delle opere fatte negli secoli addietro. Solo negli ultimi 10 anni, insomma, poi sono state un po' ristabilite le cose, è stato ricostruito con un rigore storico maggiore poi le cose per come erano. Con questo io direi di salutarci qui. Direi che la puntata di oggi è stata abbastanza lunghetta e vi ho detto molte cosette, ma vi lascio in ottima compagnia, direi, perché vi lascio con l'ultima opera che vi volevo far ascoltare di Giovanni Battista Pergolesi. Cambiamo completamente tono, perché questo è uno strumentale ed è un concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore, uno di quei pochi su cui c'è abbastanza certezza che fosse suo. Uno stile completamente diverso, lo sentirete, i movimenti sono due, sono allegro largo e allegro. E un altro stile, ma insomma anche questo fa parte ovviamente della musica e della poetica di Pergolesi. Quindi ce l'ascoltiamo, e io con questo ascolto poi vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima, penso e spero in compagnia della mia compare Virgi, e quindi sempre intorno alle 6:30, 6:30, sempre su Radio Wombat. Ciao ciao! Thank you.